shuffling madness. I'm a locomotive brat. Runs the all-time loser. Headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping. Steam breaking on his brow. And his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train, it won't stop going. No way to slow down. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Ancora qui, ancora il rovescio della medaglia, sempre da Prog 5 quarti e Prog 1. Nonostante tutto, aggiungerei così. Sì, sì, no, per partito preso. Nonostante tutto, gesti scaramantici, per fortuna non visibili. No, io mi riferisco nonostante tutto che... Come saprete, insomma, dopo finito tutto il prog italiano, ci siamo trovati un po' orfani, no? della nostra italica musica, e siamo espatriati in Inghilterra. Sempre lì, sempre qui la regia dal famoso teatro che abbiamo ereditato da Emerson, Lake & Palmer, sempre noi. E vi diamo il benvenuto a quella che è, credo, la 18ª puntata di Prog 5 quarti. 18ª puntata, ma forse ho perso il conto anche io. Comunque va bene, faceva figo, no? Direi sì, che alla 18ª puntata. Accidenti, raga, quasi quasi vado ad ascoltare le altre 17 che hanno fatto, solo per quello, capito? E sempre qui su Radio Wombat. Allora, oggi puntata a livello di presentazione, di scaletta, no, la scaletta è bellina, è più che altro lunga, ecco, e diciamo in quanto a presentazione dei gruppi sarà una puntata alquanto più o meno limitata, no? Proprio 5 quarti. Sì, è una puntata quasi, anche questa quasi monografica, perché vi presenteremo soltanto tre gruppi. Che non diciamo per evitare che tutti i nostri ascoltatori scappano via quando scoprono chi presenteremo. Quindi. Una grande fuga. Il re minore, però. Comunque, i più attenti ascoltatori avranno riconosciuto la nostra sigletta e avrete riconosciuto che questi erano i Jethro Tull dall'album Aqualung. Il brano era Locomotive Breath. E non è il primo album, abbiamo scelto così un brano e un album che ci piacevano, al di là della cronologia, per presentarvi appunto questo gruppo, uno dei maggiori gruppi inglesi e non solo inglesi di quel periodo. E hanno avuto anche loro una carriera lunghissima e colma di esperienze, di dischi, di concerti, ci sono numerosi video, videoclip, video più, diciamo, mediometraggi, insomma, una produzione molto intensa. Molto intensa, varia e vasta. Il gruppo si forma intorno a Londra a fine anni 60, suonando nei vari locali dove avevano iniziato anche Pink Floyd, tutti i gruppi rock di quel periodo. E una cosa particolare è che il primo periodo, comunque già la formazione era quella dei Jethro Tull, ogni tanto, tutte le volte che andavano a suonare... Scusa, ma sono i Jethro Tull o i Jethro Tull? C'è la G lunga, è Jethro. Ah, ok. Okay, no, io no. Ho sempre conosciuto come Jethro Tull, ora. Sì, poi ci sarebbe, vabbè, il TH, ma quello te lo lascio a te, pronunciare il TH in inglese. I Jethro Tull, la versione toscana dei Jethro Tull. Vabbè. Scusa, cioè, siamo in Inghilterra, ma siamo partiti da Firenze comunque nella nostra... In autostop. No? Certo, quindi abbiamo portato un po' anche del nostro contributo culturale e artistico nella Londra. Ti ho spezzato tutta la tua scaletta, te l'hai studiata. No, ma sto andando a braccio, come si dice. Eri fantastico, no. Perché non hai letto nulla e andavi a dritto, io te l'ho spezzata miseramente. No, ma sono preparatissimo. Comunque, poi mi hai spezzato proprio l'aneddoto divertente che volevo dire, ora non lo dico più. Allora, lo dici te. Lo dico io. No, praticamente andavano a suonare in questi locali, tipo dei pub comunque, erano piccoli, piccoli locali. Sì, te intanto fai i cazzi tuoi, vai. No. Che fai? No, stendi i panni, stiri, che cazzo fai? No, devo passare la vaporella alle finestre. Ecco. Quindi, per far vedere in questi locali che comunque c'erano più gruppi, c'era un movimento... brulicante, praticamente Jethro Tull, che facevano tutte le volte che andavano a suonare nello stesso locale, cambiavano nome, così che per stimolare un po' la curiosità dei loro ascoltatori. Tanto è che il primo 45 giri che è uscito, il primo singolo, e la casa discografica, comunque ci fu un errore e uscì col nome di Jethro Tull. Sì. Tipo, sì, una cosa del genere, ci fu un errore e uscirono con il nome sbagliato, Jethro e Tull, tipo zoccolo, zoccolo di Jethro, che tra l'altro questo Jethro Tull era un agronomo inglese del 600, mi sembra di fine 600, non so perché hanno scelto questo nome, forse era uno dei nomi a caso, che prendevano in quegli anni e poi dopo gli è rimasto questo, che era quello forse che suonava meglio. Comunque, la loro carriera inizia con l'album This Was del 1967, mi sono 68, mi correggo da solo. 67-68, forse l'hanno registrato a Capodanno del 68. Sì, comunque... Un bel disco con sonorità molto rock blues, e però già da lì sentivano comunque la particolarità, la caratteristica fondamentale di tutta la carriera, che è il flauto traverso di Ian Anderson, che ha caratterizzato, comunque ha dato un marchio a questo gruppo. E subito un discreto successo, poi replicano il successo nel 69 con Stand Up, anche questo sempre con caratteristiche per lo più rock blues, degno di nota, una particolare, la Boire di Johann Sebastian Bach, riproposta da Ian Anderson al flauto traverso e al basso, il bassista ovviamente, che non mi ricordo come si chiama, Però insomma è una non è importante i nomi, importante, cioè, la qualità della musica. Dare comunque no, dare proprio una professione a, cioè, il basso non lo può suonare il erano, per questo erano corretti, c'era, cioè, il bassista suonava il anche basso. Anche se noi abbiamo sempre elogiato la polistrumentalità di tutti i gruppi, di tutti i componenti dei gruppi che abbiamo presentato fino ad oggi. Certo. Comunque, no, non mi ricordo, ora non mi viene in mente. Comunque. Abbiamo cominciato con un'incomprensione micidiale oggi, Prog Dodi. Perché? Non lo so, vedi, domanda. No. Ci siamo. Ci siamo, quindi comunque una carriera lunghissima, non vi sto a elencare tutti gli album che hanno fatto, Benefit del 70 che non fu un grande successo. E so anche perché comunque un po' si discosta da tutte dalle caratteristiche degli altri album. Arriviamo ad Aqualung del 1971, e il primo, diciamo, per certi versi, il primo concept album dei Jethro Tull, anche se Ian Anderson ha sempre dichiarato che loro non erano un gruppo prog, perché loro diceva, un po' anche ironicamente, come era nel suo stile, i gruppi progressive facevano concept album e loro invece non li facevano. Aqualung in certi sensi può essere un concept album non tanto musicalmente quanto proprio come storia, come sceneggiatura dell'intero album, che è la storia di questo clochard, che è un po' diciamo una delle tante facce di Ian Anderson. La musica, ogni pezzo è completamente diverso, è completamente, ha una sua struttura e un suo senso. Innovativo. Però, sì, molto, molto innovativo. E insomma, la storia di questa, diciamo, di questo avatar di Anderson. Però il primo, diciamo, il primo vero album progressive che vi presentiamo, appunto dei Jethro Tull, è Thick as a Brick, e è questo un vero concept album, perché praticamente è stata registrata una traccia sola, è una traccia che dura 40-45 minuti, divisa per esigenze proprio fisiche in due tracce nel disco e dopo nel CD successivamente. Questa è un'opera molto complessa, anche molto, molto bella, ascoltabile, però con diciamo musicalmente è un brano di opera, un'opera classica, no? Quasi una cosa del genere. Comunque la faccio un po' più corta, mentre i testi di questo album sono molto ironici, hanno comunque delle caratteristiche, come spesso erano i testi di Anderson, sarcastici, ironici, doppi sensi, anche spesso anche sessuali, sono tutta una serie di cose. Comunque sempre un disco di, ma anche di denuncia, no? Verso la società borghese inglese. Una cosa particolare è che quando è stato presentato questo album, l'autore dei testi è stato, diciamo, i testi erano stati attribuiti a questo bambino prodigio che si chiamava Gerald Bostock, che aveva scritto, chiamato Little Milton, il piccolo Milton, un altro poeta, grande poeta inglese. E dopo un po' di tempo abbiamo scoperto che in realtà questo bambino non esisteva, ma era sempre un alias di Anderson. Un altro simpatico scherzetto. L'ultima cosa, la copertina del disco era fatta da un giornale, un quotidiano inglese, ripiegato in quattro parti, dove in mezzo alle notizie di, mi sembra la data era proprio, coincideva con la data dell'uscita del disco, della registrazione, non mi ricordo, comunque in mezzo alle notizie di questo giornale avevano infilato i testi di questo album. Comunque ora basta, ascoltiamo Thick as a Brick,

shadows on the water as the sun plays on the infantry returning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other, as the failing light illuminates the mercenary's creed. A foam fire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is far away. The forest sea is stamping, the warm breath clouding, in the sharp and frosty morning of the day. And the poet lifts his pen, while the soldier sheathes his sword. The family is moving with authority, a building castles by the sea. He dares the tardy tide to watch them all aside. Bene, io sarei andato avanti per altri, insomma, una quarantina di minuti per sì, sentire meglio anche la, diciamo, il lato B del disco. Però... diciamo che io avrei fatto solo oggi, avrei fatto solo quest'album, parte 1 e parte 2, e poi sarei andato a casa in pace. Sì, però comunque... lo facciamo? Lo facciamo la prossima volta. Lo facciamo, ascoltatori, non ci provocate. Ormai l'abbiamo interrotto. Comunque, questo, vabbè, comunque anche questo album subito un grande successo, anche se non da tutti apprezzato, perché comunque più complicato, più ostico, no, alla comprensione, perché era abituato ai primi album, ai suoni più rock, più blues. Comunque, andiamo avanti. L'anno successivo, nel 1973, sì, questo era del 72, nel 1973, visto che gli era piaciuta questa esperienza, riescono con un altro concept album dal nome A Passion Play. Tradotto in italiano è Il mistero sacro, è il, diciamo, il dramma della passione. Poi play in inglese significa un sacco di cose, quindi sì, magari era anche qui da interpretare. A differenza dell'album precedente, questo ha un testo molto, molto complicato e molto profondo, parlando ovviamente della vita dopo la morte, cioè una specie di viaggio di questo personaggio, del protagonista, che dopo morto si trova a affrontare tutte le difficoltà dell'aldilà. Quindi c'è una discesa agli inferi, una specie di romanzo di formazione, no, con una discesa e una risalita dal basso, dagli inferi. E anche questa, la critica invece non lo accolse benissimo, anche ora è abbastanza dibattuto. Però siccome anche questo non è diviso in tracce e comunque è una lunga suite che dura i due lati del disco, vi faremo sentire solo una parte, che è un piccolo estratto, praticamente è un intermezzo. Tra il primo e il secondo lato ci hanno inserito questa parte, e è un intermezzo, diciamo un intermezzo divertente, che non c'entra assolutamente niente né con la storia del testo, diciamo, precedente, né nemmeno con la musica, perché è un pezzo recitato, tipo una specie di recitato nell'opera classica, no? E questo intermezzo si chiama The Story of the Hare Who Lost His Spectacles. E è un appunto un intermezzo recitato dove i protagonisti sono degli animali. E qui Anderson si diverte, perché dove non aveva potuto fare nel testo, diciamo, serio, un po' più cupo, più scuro, allusioni o doppi sensi, o qui si diverte, è un testo complicato da tradurre, secondo me, dall'inglese, però comunque si capiscono dei giochi di parole, ci sono delle cose comprensibili anche a un inglese, a un livello di lingua inglese tipo la mia, ecco. Comunque, facciamo sentire questa storia della lepre che perse gli occhiali e il brano che viene subito dopo, dove ricomincia questo mistero sacro, questa Passion Play. Va bene? La mandiamo? La mandiamo. Avevi ancora altri 10 minuti di sottofondo di Thick as a Brick. Sottofondo non ci potevi mancava. Potevi sfruttare. Ti ho messo alla prova. Ok, allora mandiamo Passion Play Part 2 con l'intermezzo che hai appena presentato. Prego. This is the story of the hare who lost his spectacles. Owl loved to rest quietly whilst no one was watching. Sitting on a fence one day, he was surprised when suddenly a kangaroo ran close by. Now, this may not seem strange, but when Owl overheard kangaroo whisper to no one in particular, "The hare has lost his spectacles," well, he began to wonder. Presently, the moon appeared from behind a cloud, and there, lying on the grass, was hare. In the stream that flowed by the grass, a newt. And sitting astride a twig of a bush, a bee. Ostensibly motionless, the hare was trembling with excitement, for without his spectacles, he appeared completely helpless. Where were his spectacles? Could someone have stolen them? Had he mislaid them? What was he to do? B wanted to help, and thinking he had the answer, began, "You probably ate them, thinking they were a carrot." "No," interrupted Owl, who was wise, "I have good eyesight, insight, and foresight. How could an intelligent hare make such a silly mistake?" But all the time, Owl had been sitting on the fence, scowling. A kangaroo were oppy mad at this sort of talk. She thought herself a far superior in intelligence to the others, as she was their leader, their guru. She had the answer, "Hare, you must go in search of the optician." But then she realized that hare were completely helpless without his spectacles, and so kangaroo loudly proclaimed, "I can't send hare in search of anything." "You can, guru, you can," shouted Newt. "You can send him with Owl." But Owl had gone to sleep. A newt too much to be stopped by so small a problem. "You can take him in your pouch." But alas, hare was much too big to fit into kangaroo's pouch. All this time, it had been quite plain to hare that the others knew nothing about spectacles. for all their tempting ideas. Well, hair didn't care. He lost spectacles for his own affair. And after all, hair did have a spare. A pair. Of our stairs, old gentlemen talk of when they were young, of ladies lost, of erring sons, lace covered dandies revel with friends, pure as the truth, tied at both ends. Well, I'll go to the foot of our stairs. Cathedral, spire pointed down. We pray for souls in Kentish town. A delicate hush, the gods floating by, wishing us well high in the sky. God of ages, Lord of time, mine is the right to be wrong. Well, I'll go to the foot of our stairs. Jackrabbit messed up, spawned a new breed of love-hungry pilgrims, no bodies to feed. Show me a good man and I'll show you the door. The last hymn is sung and the devil cries more. Ok, allora abbiamo presentato i Jethro Tull e come mi ha prima ricordato Prog 5 quarti, che è il bassista, gli è tornato in mente il nome del bassista, che era? Jeffrey Hammond. Jeffrey Hammond, che non suonava Lemon. Era solo fare il giochetto del nome con lo strumento. Va bene. Stendiamo un velo pietoso. Allora, il prossimo gruppo invece che vado a presentare sono i Can, scritto K-A-N, penso anche come Gengis Khan, mi sa, può essere? Sì, scritto. Sì. Allora, questo gruppo, anche lui, come altri gruppi presentati nelle puntate precedenti, vengono dalla famosa scena di Canterbury. E questo è un gruppo che hanno fatto un solo album, Space Shanty, che uscì nel 72. E, diciamo che questo gruppo praticamente si è formato nel 70. E, diciamo, e in qualche modo è stato l'incontro così per, come dire, di rilevante importanza è stato tra i membri della band che si sono conosciuti, che facevano l'università, e nel 68 che hanno conosciuto i Caravan, che già abbiamo presentato nelle puntate passate, e quindi in qualche modo, diciamo, i Caravan hanno fatto un po' da trampolino, da lancio per questo gruppo. E così nel 71 praticamente i Can entrano nello studio di registrazione e fanno questo album, che è abbastanza bello, di cui ho scelto due pezzi che andrò a presentare, che sono Space Shanty e Stargazers. E che possiamo dire? Diciamo, in qualche modo, ecco, questo è stato un po' un gruppo, come posso dirlo, Prog 5 quarti, aiuti. Diciamo che ha una sorta di legami, ecco, di collegamenti con altri gruppi, esatto, che abbiamo, esatto, già presentato. Con altri gruppi che abbiamo già presentato, ad esempio con gli Egg, alcuni dei componenti poi vanno a suonare con gli Egg che abbiamo presentato. O addirittura Eric Pecce, Pecce, qualcosa del genere, che poi andrà a collaborare con il lavoro solista di Greenwood, che era dei, se non sbaglio, dei Genesis, credo. Non mi ricordo, comunque vabbè. E che tra l'altro si narra, diciamo, che partecipò al lavoro solista di Greenwood, che era quest'album che uscì, che si chiama Cold Cuts, che uscì nel 72. E si dice che detto così non suona tanto bene. Cold Cats. No, è Cuts. Cazzo, sì. Che poi Cold Cats nel dialetto mio si traduce diversamente, quindi onde evitare magari. No, è cazzo. Conterranei all'ascolto dicono: guarda, sto imbecille, bestemmia pure il radio. Vabbè. E quindi, diciamo, esce quest'album che non pronuncerò, che ho appena pronunciato, che diventerà uno dei più rari e costosi dischi di sempre, e che poi immediatamente siamo andati a controllare. Praticamente questo disco è quotato sui tipo 3.300 euro, qualcosa del genere, quindi insomma, sappiatelo se ce l'avete, come sempre. Ok. E, diciamo, mentre Stewart, un altro componente sempre dei Can, poi nel gennaio del 73 entrerà in un'altra importante band che abbiamo presentato sempre della scena di Canterbury, che sono gli Hetfield and North. Ricorderete l'aneddoto di questa autostrada che collega Londra al nord, e da cui poi hanno preso il nome, hanno dato il nome al gruppo. Io questo aneddoto non l'ho mai capito, sinceramente. Ti ricordi? Sì, no, che c'era il, credo, se non sbaglio, il batterista del gruppo che a quanto pare, cioè, la critica lo racconta in forma così simpatica, quasi allegorica, che chiacchierando con una ragazza gli disse: ma vorrei chiamare il mio gruppo Hetfield and North, la versione ufficiale, che era sbronzo marcio, ci ha provato con la tipa per fare il figo, ha detto ma sai Ricky Mary Hetfield and the North, ecco com'era. E da lì è nato, se te sei distratto proprio 5 quarti, cioè no, non è no, colpa mia, no, non avevo capito proprio il senso di questa cosa, ma ora sì, mi torna più chiaro. Ti torna, ti ricordi? Sì, grazie, grazie. Sì, sì, sì, sì, sì. Ok, allora, quest'album esce con la Deram, l'etichetta discografica che ha prodotto all'epoca anche diversi gruppi, scusate, diversi gruppi della scena di Canterbury e della scena prog in generale di quegli anni inglese. E di questo album, come ho detto prima, presenterò e penso anche mixerò Prog 12, vero? Sì, sì, sì, fai uno dei tuoi grandi mix. Uno dei miei grandi mix. E presenterò Space Shanty e Stargazers. Loro sono i Can, dall'album Space Shanty del 1972, sempre qui su Radio Wombat. Where you are bound. Ok, allora avete appena ascoltato i Can con il loro unico album Space Shanty uscito nel 72 e ammetto che è stata pura casualità di il secondo pezzo mandato, Stargazers, che ricorda molto, come appunto stavamo notando con Prog 5 quarti. Ricorda un po' molto già le sonorità degli album di alcuni album dei King Crimson, in qualche modo, vero? Prog 5 quarti. Sì, confermo tutto quello che dici. E quindi in qualche modo è un ottimo anello di congiunzione, proprio perché il prossimo gruppo che andiamo a presentare sono i King Crimson. diciamo, eviteremo di presentare un po' di, diciamo, di fare la biografia dei King Crimson, per il semplice fatto che l'abbiamo fatta già nello speciale dedicato a Emerson, Lake & Palmer, in cui ricordiamo ancora Greg Lake che partecipò al primo fantastico album dei King Crimson, che ricordiamoci nel 69 In the Cult of the Crimson King. E ricordiamo anche Greg Lake, anche mi sa come voce, anche nel secondo che è appunto In the Wake of Poseidon. E sicché, allora, visto che li avevamo già presentati, ci siamo detti ovvia, allora continuiamo, presentiamo gli album, il resto degli album che non abbiamo presentato in quello speciale, anche perché appunto il collegamento erano solo i primi due album con Greg Lake. Ok, allora praticamente cominceremo e presenteremo il terzo album, che è uscito nel 1970, che si chiama, come si chiama, Prog 12? Lizard. Come? Lizard. Non era Lizard? No, no. Sono stati a litigare Lizard tipo due ore, perché dicevo Lizard, invece no, sì. Lui Lizard. Quindi diciamo il terzo album Lucertola, così tagliamo la testa o tagliamo la coda alla lucertola. Sì, tanto gli ricresce. E se poi perdono la coda la ricomprano. Ok, questo album, come abbiamo detto, è uscito nel 1970, e diciamo è il terzo album dei King Crimson, che è abbastanza sperimentale, diciamo, rapportandolo ai due album precedenti. E addirittura c'è anche un pezzo nell'album di cui il testo si dice che faccia riferimento al recente scioglimento dei Beatles all'epoca. e nulla, di questo album presentiamo, che penso mixerò, sì, volentieri. Presentiamo, no, non mixerò perché è un pezzo solo. Un pezzo solo che ne vale per due. Che ne vale per due. Presentiamo Circus. Loro sono i King Crimson, dall'album Lizard o Lucertola del 1970. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, close me in questions, built the sky for my dawn. Spinning statesman, acrobatically juggling. rats, they'll chop, ate the floors of their cages. Strongmen lost their empty box, collapsed, and lions sharpened their teeth. Clubs raced round the ring, stallions stampeded, pandemonium seesaw. I ran for the door, ringmaster shouted, all the fun of the circus. E allora andiamo avanti con il successivo album dei King Crimson dal nome Islands, un album con diciamo sia sonorità che testi influenzati o comunque che si rifanno alla storia dell'Odissea di Omero. Musicalmente anche influenzati da una precedente collaborazione e con Miles Davis da parte di Gil Evans, sempre un altro componente del gruppo. E di questo album Islands andiamo a presentare due brani. Il primo si chiama Sailor Tale e il secondo Letters. Questi sono sempre i King Crimson dall'album Islands. Qui sto al rovescio della medaglia su Radio Wombat. Buon ascolto. the wife with chokestone throat ran to the day with tear blind eyes. Ok, eccoci ancora qui, sempre su Radio Wombat col rovescio della medaglia. Loro continuiamo ancora con i King Crimson, ma prima di continuare a presentare il prossimo album, diamo un po' di dati tecnici, diciamo, un po' di sana pubblicità, via. Di pubblicità per noi, ovviamente, sì, con il nostro sito wombat.noblogs.org. twitter.com/radiowombatfi di Firenze, ovviamente, e il nostro facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail è posta wombat@insiberia.net. E stavamo giustamente notando ora che finalmente dopo il tanto annunciato, nonché pubblicizzato, nonché atteso Wombat Logo Contest, è uscito il logo. È stato scelto all'unanimità questo logo per la nostra radio, che vi faremo vedere. Eccolo qua, questo è il logo. Guardatelo attentamente e diteci se vi piace. Comunque lo potete trovare sulla nostra pagina Facebook. E comunque vogliamo anche dire sul nostro sito, immagino. E sul nostro, non so ancora se è stato aggiornato il sito. Comunque volevamo dire a tutti coloro che hanno mandato la loro proposta di logo che sì, è stato scelto un logo, ma verranno utilizzati tutti i vostri progetti, tutte le vostre creazioni per altri utilizzi come adesivi, magliette, borse, accendini, spille, pantofole, tendine, quelle parasole, il parasole per la macchina, flyer, manifesti, scritte nel cielo, tutto quello verranno utilizzati tutti, perché erano veramente tutti belli, però quello che ci sembrava più adatto al logo era questo. Sì, diciamo che è stata una scelta difficilissima, no? Sì, è stata una nottata di scambio di opinioni, di discussioni, con qualche attrito. Sì, tutti... rischio, cioè attrito sì, rischio coltellate, bottigliate. Di tutto. No? Va bene, ok, allora diamo il benvenuto al nuovo logo di Radio Wombat. E andiamo avanti con la trasmissione. Presentiamo il quinto album che è uscito nel 72, che si chiama Lark's Tongues in Aspic, e questo praticamente fa parte della, diciamo, della terza epoca dei King Crimson, che va dal 72 al 74, e anche, diciamo, sempre con la pietra angolare, diciamo, Robert Fripp, la colonna portante, pietra d'angolo. Una pietra angolare, quella. La pietra d'angolo, come è scritto nella Bibbia. Non è pietra miliare, è un'altra cosa. Magari l'album è una pietra miliare. No? E lui anche è una pietra anche angolare. Robert Fripp in sé, di per sé, può essere una pietra miliare, ma volevo dire altro. Sì, no. E che noi ci facciamo i dispetti a vicenda. Quando io sono in panico, lui gioca sul mio panico e viceversa, quindi va bene. La pietra d'angolo è un cenno biblico, te non sei mai stato Rasta, capito? Allora, andiamo avanti. Dicevamo, in questo periodo, che è il terzo periodo dei King Crimson, che va dal 72 al 74, appunto, da cui tirano fuori Lark's Tongues in Aspic, ci sono nomi illustri, c'è tipo Bill Bruford, l'ex batterista degli Yes, che andremo a presentare, mentre c'è anche John Wetton, che compare, diciamo, in questa terza fase di King Crimson, compare come cantante bassista, che era membro dei Family, che invece abbiamo già presentato. Ok, allora, quest'album praticamente si presenta con il titolo dell'album, praticamente è suddiviso in due parti. Parte 1 che apre l'album e la parte 2 che chiude l'album. E in questo album, diciamo, è abbastanza sperimentale anche questo, e, diciamo, vengono usati una serie di oggetti alquanto insoliti, e quindi la sperimentazione di, o la sperimentalità, sperimentazione, o l'essere sperimentale di questo album sta nel fatto che vengono usati una serie di oggetti abbastanza inusuali, inconsueti nella musica, o quantomeno nel suonare così canonico in generale, che sono tipo campanelli di una bicicletta, giocattoli vari, gong, non come i gong, il gruppo simpatica, se c'era la risa e gli applausi me la facevo da solo, vabbè. Ok, di questo album andiamo a presentare la traccia omonima o eponima, che dir si voglia, che, ossia Lark's Tongues in Aspic, e la parte 2, ossia la seconda parte di questa traccia, che dà anche il nome all'album, che chiude l'album. Loro sono sempre i King Crimson, sempre qui su Radio Wombat. We'll be right back. Eccoci, allora il prossimo album che andiamo a presentare, siamo arrivati al 1974 e praticamente nel 74 escono due album, Starless and Bible Black e Red, e poi con Prog 12 abbiamo fatto Pari e Dispari, sono uscito io presentando Starless and Bible Black, mentre dello stesso anno poi presenterà, passerò la palla, la parola e la palla, il microfono e il mouse, nonché i volumi a Prog 5 quarti. Ok, allora, Starless and Bible Black è praticamente un album per due terzi strumentali, in cui Fripp si diverte abbastanza col mellotron. E di questo album ho scelto il pezzo che si chiama The Great Deceiver, che poi sarà anche un quadruplo album che fu pubblicato nel 1992. L'ho scoperto poco fa, lo ammetto, e di cui andiamo a ascoltare ora, semplicemente. Sì. C'è da dire che noi abbiamo presentato alcuni degli album di tutta la carriera di King Crimson in studio. Poi loro hanno pubblicato, mi sembra, negli anni, perché comunque sono ancora in attività, una sessantina di album live. Sì, e loro cambiano, sì. Ovviamente cambiando formazioni, strumenti, aggiungendo batterie, ogni anno che passava aggiungevano una batteria sul palco, però no, sul live ci siamo fermati, abbiamo detto no, troppo ci perdiamo, quindi... Per ora ci fermiamo qui allo studio e agli anni 70. E andiamo avanti con... Avevi altri? No, andiamo con... Pianetto di rappresentare. Starless and Bible Black. The Great Deceiver. Sweet tradition. Plain to see her, sing him E arriviamo alla conclusione del, diciamo, del primo macro periodo dei King Crimson, perché con Red del 1974 rimangono un trio, e rimane Robert Fripp, Wetton e Bruford. Ma in questo periodo Fripp era in un, diciamo, in un periodo un po' infrippato. Era un po' infrippato. Era, tanto che dal suo stress, dalle sue paranoie, frustrazioni, si era avvicinato al mistico, come si chiama, George? Gurdjieff. Uno di questi mistici degli anni 70, partiti dall'Inghilterra e tornati mistici dopo qualche un corso di misticismo in India, era tornato comunque. E per questo motivo si trovarono Wetton e Bruford a incidere tanti pezzi da soli, senza l'aiuto di Robert Fripp, che era, diciamo, finora stata la mente di questo gruppo. Una delle menti, ma la più significativa, la pietra angolare. Ecco. E che dire, questo comunque dopo questo album Fripp decide che la carriera di King Crimson e il progetto King Crimson è finito, e qui finisce appunto la prima era di King Crimson. E poi nel 1974, e poi si riuniranno nell'81 sempre con alti e bassi, comunque con dei brevi periodi di pausa. Comunque ancora i King Crimson sono in attività. Comunque, da questo album Red vorrei presentare tre brani. Il primo eponimo, Red, e il secondo è Fallen Angel. No, ho sbagliato, perché il primo no, il primo vorrei mettere, sì, il primo è Red, poi Fallen Angel e l'ultimo Starless, che è considerata una pietra miliare della discografia dei King Crimson. E con questo grande mix, che è anche un trix, perché sono tre pezzi. Una suite. Dopo due diventa una suite. Abbiamo deciso così. Vi salutiamo, a tutti i nostri Wombat ascoltatori, e ci risentiremo. Soprattutto ai nostri prog ascoltatori. I nostri prog Wombat ascoltatori. E diamo appuntamento alla settimana prossima. Settimana prossima, martedì. Stessa ora, stesso posto, stesso bar, come cantava... Come si chiama? Max Pezzali. Sì? Sì, gli 883. Ah, certo. No, infatti loro vanno citati ogni tanto. Ogni tanto, cioè, sì, gruppo prog per antonomasi. Ok. Va bene, dopo questo è davvero tutto. È davvero la fine. È davvero la fine. This is the end. Ok, ciao a tutti e alla prossima settimana. Alla prossima settimana. Sempre. E buon ascolto, rimanete sempre qui con noi su Radio Wombat. West Side skyline crying, fallen angel dying, risk a life to make a dime. Lifetime spent on the streets of the city. Down, down.